L'acqua del lago in silenzio assoluto guarda impavida, piena di paura, soffioni fuggendo, rotolando, senza un urlo primaverile. Anche il deserto, pieno di sabbia, pieno di sete, pieno di vento, avverrà.